pagato per quello che c'è stato, e forse quello che abbiamo passato l'abbiamo pagato sulla nostra pelle. Ferite profonde nel cuore, rimane il dolore passato per ore, inutile a sgorgare dal sangue. Quello che rimane è sempre più profondo, l'incostante bisogno che abbiamo di essere amati profondamente. Tutte quelle volte quella mente che rimane a vagare per ore, ricordo le passioni leggere che ci sfioravamo, ci guardavamo negli occhi come un paradiso artificiale, e tutto quanto sembrava sfumare, la realtà sembrava svanire, e intorno c'eravamo solo noi nella stanza, ma adesso c'è una presenza di tutto, c'è l'imperfetto, c'è la follia, e tutto sembra andare via. Inutile ricordare quelle ore del cuore, inutile ricordare quelle ore ad amare. Vibrazioni che vengono su dal mare, parole, parole, parole, rimangono nel cuore, ferite leggere, subite, ripartite, dentro vene sezionate. Ci si taglia le vene per sopravvivere, per dimezzarsi, per valere di più, e in fondo quel che rimane è soltanto un buco di noi, presenza inconsueta in questo mondo, presenza senza un'assenza vera, siamo presenti e del tutto assenti, immobili a guardare tutto quanto che scorre, come in un film muto, dove nulla è piaciuto, nulla è dovuto, e te lo devi guadagnare. Dato rispetto alla gente, forse troppo, sono morto più volte per questo, lo ammetto, non è stato un gesto troppo onesto, morire, in fondo chi vive ha sempre la soluzione, ha sempre camminato bene e non gli mancano le parole, e a volte guardarsi dentro fa più male, a volte restare fuori, bisogna essere un animale, fuori dalla gabbia, continuamente in lotta per ciò che ci circonda. Fuori dalla gabbia rimane solo l'onda che ti aspetta, ti invade, ti devasta, eppure noi stiamo bene, noi stiamo bene, eppure noi siamo bene. Ma il male te lo devi guadagnare, il denaro, la fama, il successo, la gloria, è tutta un'altra storia, è tutta un'altra storia. Mille pallottole nel cuore rimane il dolore, mille pallottole nel cuore rimane il dolore, un fiato sospeso dentro al vuoto, sembra poi torcere tutto il saluto che potrei darti e non lo so fare, potrei inclinarmi e dare una nuova prospettiva reale, una nuova soluzione per cambiare questo stato di presenza incostante, mente ritorna alla mente, il fiato del cuore. Tutto quello che ho buttato nel cuore per poterti dimenticare, per iniziare a camminare, eppure tutte le volte che vorrei e non ci sono perché tu non ci sarai, tutte quelle volte che alla fine devo mentire, tutte quelle volte che per stare bene bisogna guarire, dicono, bisogna guarire, e in fondo una malattia fondamentale è l'amore, follia illuminata, matematica del cuore, non c'è ragione. Senza di te ho un'ala metà, volo di gabbiano libero, oltre il confine dell'immenso, torna al nulla, non c'è risveglio, e ogni mattina sembra uno sbadiglio, tornato al cielo, eppure non piango più, vorrei soltanto risorgere, risperare, guadagnare qualcosa di migliore. Un rispetto, qualcosa che la mia strada mi possa dare, un posto nel mondo, il mio bisogno di esistere profondo, non lo dice il conto in banca, non lo dice la mia macchina, lo dice le volte che sono morto, per non soccombere, sono risorto, per guardarmi intorno, per cercare un nuovo amore. E vogliono che tutte quelle sere da solo continui, vogliono che continui il mio martirio, ma amare, voluto dire cose vere, ma poi ho mentito, mentito col mio sogno, con me stesso, soltanto perché ero solo depresso, in fondo.